Dobbiamo scusarci da scarsa frequenza con i nostri relatori. Ed è un problema su cui veramente noi ci stiamo tormentando da parecchio tempo. Come dicevamo prima, non è un tormento unico nostro, perché l'altro giorno ero a Roma a una riunione di tutti gli istituti storici medievali congiunti, ci si era 10 persone. Non è che la patologia riguarda soltanto questo istituto, però siccome noi siamo qui, a me e credo a tutti noi dispiace ovviamente questo tipo di incapacità o di impossibilità appunto ad avere un impatto con la realtà degli insegnanti di Trento, con la realtà delle persone che si interessano di problemi storici che ci sono, che esistono, perché non è vero che non esista nessuno. Vengo dall'interesse di oggi e spero possa trovare poi una continuazione in futuri incontri o in altre forme anche di pubblicazione degli atti stessi dell'incontro di oggi, o vedremo, tutto è possibile. Proprio nel primo tentativo, se non mi sbaglio, è appunto il primo, ecco, di vedere in termini comparatistici tra l'Italia e Germania, cosa è stata, che cosa ha significato nel periodo pre-rivoluzionario e rivoluzionario napoleonico la vendita dei beni ecclesiastici dal punto di vista più generale e nei suoi aspetti, nei suoi conseguenze economiche. Questa comparazione credo sia di per sé stessa una cosa del massimo interesse che corrisponde appunto alle finalità che vogliamo portare avanti con il nostro istituto. Di avanzamento delle ricerche nei campi storiografici attraverso e mediante non una storia comparata, ma mediante appunto un affronto sul vivo nella ricerca. Non vogliamo appunto avere delle prospettive di storia comparata. Intendiamo insistere sul raffronto tra le due storie per comprendere meglio ciascuna. Oggi potremo adottare diversi metodi di lavoro. Ci pareva però opportuno, probabilmente, dare prima le tre relazioni, anche se questo può portare a una certa pesantezza nella mattinata, perché si tratta di assorbire tre relazioni, si tratta di un intervallo tra le prime due e la terza, non so, ecco, e di poi al pomeriggio fare la parte più seminariale, più dato lo scarso numero dei presenti, io penso che i relatori non avranno difficoltà ad estendere il metodo seminariale anche alle relazioni introduttive, perché quindi se ci sono dei problemi che vengono fuori man mano durante le relazioni, io credo che si possa appunto. Però, grosso modo, la discussione è questa. Partiremo allora dal professor Placanica e poi il professor Dipper. E qui faremo una breve pausa e poi il professor Cova dopo parlerebbe appunto sugli aspetti economici e alle 12.30 dovremmo quindi aver finito e ricominciare verso le 2.30 per chiudere le 4.30. D'accordo. Quindi io ci darei la parola al professor Cova. Innanzitutto ringrazio per la fiducia che loro hanno avuto in me. Per quanto riguarda, volevo confortare il collega Prodi e dire che questa è la scarsa presenza è un problema generalizzato. Io come istituto a Salerno tendo a recuperare, ove possibile, la provincia. Cioè con dilatazione degli interessi storiografici, naturalmente a livello di storia locale, ma sempre con un con un atteggiamento e un approccio di tipo né locale né regionale, ma metodologicamente agguerrito, ma forse il recupero della provincia incomincia ad avere, non dico una sua esigenza primaria, ma comunque ad essere forse una delle strade che bisogna percorrere. Se si vuole recuperare quello che alla provincia si è tolto con un imperialismo culturale delle città, e se si vuole recuperare forse qualche cosa, perché anche noi abbiamo esattissimamente lo stesso problema, Oh, per quanto riguarda il problema delle vendite dei beni ecclesiastici, io faccio riferimento a un tema e un territorio molto ben delimitati. È una esperienza di, secondo me, eccezionale interesse, anche se mai studiata fino ai tempi recenti. E mi riferisco alla Cassa Sacra di Calabria, che ha avuto i primi contributi con gli studi miei del 1900, il primo studio apparve su Studi Storici, mi pare, nel 62, ci sto lavorando da 15 o 16 anni, il volume dovrebbe uscire in questi mesi. E questa sezione, questo spaccato della storia economico-sociale e anche religiosa del Mezzogiorno non è stata mai studiata, evidentemente per le caratteristiche di assoluta inaccessibilità della fonte, è costituita da centinaia di migliaia di fascicoli, da migliaia di cartelle, perché poi, come spiegherò in quattro parole, si trattava di ricostruire un archivio che era costituito dall'archivio di questo ente, la Cassa Sacra, più frammisti alle carte gli archivi di 3.000 enti ecclesiastici della Calabria, tutti disordinati, messi insieme, duplicati e mandati nello stesso disordine, una parte a Catanzaro, una parte a Napoli. Talché il mio studio sulla Cassa Sacra è il primo che appare su questo argomento. Da che cosa deriva l'importanza di questo studio? Noi abbiamo, faccio una ricostruzione molto breve. Il 5 febbraio del 1783 la Calabria ulteriore, quindi le attuali province di Catanzaro e di Reggio, e una porzione della Sicilia, Messina e il suo interland immediato, vengono colpite da un terremoto di grandiose proporzioni, no? Nella Calabria ulteriore muoiono 30.000 persone, cifra catastrofica, come si pensi che la sola Catanzaro in definitiva faceva 10.000 abitanti e Reggio Calabria, l'altra grande città della Calabria, ne faceva altrettanti, quindi equivale a tre volte una grossa città della Calabria di oggi, il numero dei morti di allora. La catastroficità del sisma però veniva aggravata da un'altra circostanza. Loro debbono pensare che nella Calabria di allora si determinarono 2.500 piccoli laghi, quindi lo stesso tessuto agrario venne profondamente sconvolto, quindi fu una catastrofe di proporzioni immani. Il paesaggio agrario in alcune zone subì delle trasformazioni notevoli. L'intervento del governo borbonico, a onor del vero, fu molto immediato e molto rigoroso, e con l'invio di un vicario generale, il principe Pignatelli Strongoli, e si diede mano a un'opera di ricostruzione, di risanamento delle ferite, così come fu possibile, poi di ricostruzione molto lenta, ma molto razionalmente eseguita, con dei progetti, con la utilizzazione delle migliori menti a livello di architetti, di ingegneri del tempo. Quindi con un'opera immane di ricostruzione. Naturalmente quest'opera di ricostruzione e poi si intrecciò con gli interessi della Cassa Sacra, e quindi fu per lungo tempo, ebbe poi una tradizione di critiche molto, molto aspre. Si disse che la ricostruzione aveva fatto più danni dei costruttori della distruzione dello stesso terremoto e così via. Questo perché l'opera di ricostruzione si intrecciò con l'opera della Cassa Sacra. Cioè, allorché l'anno successivo, nel 1784, si vede che con i mezzi normali, cioè eccezionalmente normali che si stavano utilizzando, non era possibile risarcire in pieno i danni sofferti dalla provincia, si ritenne che fosse necessario ricorrere a rimedi estremi. E così, sull'onda di alcune proposte molto generiche del Galiani e sull'onda di un vecchio anticurialismo di tipo giannoniano e di un recente produttivismo di tipo genovesiano, si auspicò, ma in modo molto debole, ecco questo bisogna molto dirlo chiaramente, si auspicò una utilizzazione dei beni della Chiesa della Calabria affinché fossero rimessi in circolo e con i proventi fosse possibile allo Stato intervenire in modo più deciso. Le proposte del Galiani, che in definitiva era consigliere molto ben ascoltato, era magistrato supremo del commercio, non si spingevano molto in avanti. Chiedeva semplicemente che venisse arrestata la collazione dei benefici vacanti di alcuni vescovati, il sequestro di qualche ente ecclesiastico, ma il 15 maggio 1784 il governo napoletano dava invece il via a un'intrapresa veramente notevole. Il 15 maggio 1784 veniva decisa la creazione di una Cassa Sacra. In che cosa doveva consistere? Venivano o soppressi o sospesi tutti gli enti ecclesiastici della Calabria ulteriore, tutti, ad esclusione delle parrocchie, ma venivano anche soppresse o sospese, venivano anche sospese le parrocchie vacanti. Tutti i beni degli enti ecclesiastici, sia soppressi che sospesi, venivano incamerati dallo Stato attraverso questo ente straordinario che era la Cassa Sacra. Siamo al 1784, quindi in un periodo non molto pregresso, e questa soppressione generalizzata, estesa a tutti gli enti ecclesiastici, a tutti i benefici, conventi, monasteri, collegi, conservatori, cappellanie, confraternite, congregazioni e così via, è veramente un fenomeno notevolissimo. E tutti questi beni, così immobili come mobili, cioè così rendite da censi, da fitte e così via, come beni immobili come case e fondi rustici, venivano ad essere posti in regime di sequestro da parte dello Stato. Inizialmente soltanto i beni degli enti sospesi, in seguito degli enti soppressi, in seguito anche quelli degli enti sospesi vennero posti in vendita, e così nel 1784 un complesso notevolissimo di fondi rustici e di immobili urbani venne immesso sul mercato immobiliare calabrese a disposizione degli eventuali compratori. Lo studio della Cassa Sacra consente due tipi di indagine, ed io mi sono misurato e con l'uno e con l'altro, anche se sono entrambe abbastanza difficili. E del secondo che dirò ancora io attendo di dare i frutti. Il primo consiste nel fare un censimento generale di tutti i beni fondiari che furono effettivamente venduti. Un'altra indagine invece consente di ricostruire quale fosse l'entità del patrimonio fondiario, immobiliare complessivamente, ma anche mobiliare a livello di rendite, degli enti ecclesiastici avanti il 1784. Noi sappiamo quali sono le difficoltà per chi voglia individuare la consistenza patrimoniale degli enti ecclesiastici, cioè la difformità delle fonti e la discontinuità delle fonti. Bene, siccome un ente ufficiale, la Cassa Sacra, appena insediatosi, dovete fare il censimento di tutti i beni, di tutte le chiese, di tutti gli enti ecclesiastici della Calabria, questo consente di avere in modo sincronico, molto preciso, con una fonte univoca e con estrema precisione di criteri un quadro della proprietà ecclesiastica a quel momento. Un quadro redatto da autorità laiche, che erano le autorità preposte all'ente sequestratore. Quindi questa prima indagine ancora io conto di portarla a termine. L'altra indagine invece mi è sembrata più agevole è quella del resoconto delle vendite effettuate. Ora, sulla base di alcune elaborazioni che io ho compiuto, e sempre tenendo conto del fatto che non tutti i fondi furono posti sotto sequestro, una certa parte non rientrava negli inventari, per esempio le mense vescovili non furono sottoposte a sequestro, ma le mense vescovili vacanti sì, nessuna parrocchia fu posta sotto sequestro, ma le parrocchie vacanti sì, quindi questo dà una lieve difformità, ma di fronte ai grandi numeri queste piccole cose non dovrebbero mutare di molto il quadro. Ora, i beni ecclesiastici disponibili come fondi rustici in quel momento presentavano un'estensione di 168.643 tomolate pari a circa 57.000 ettari per un valore di 4 milioni e mezzo di ducati. Altre elaborazioni qui non vale la pena che io vi faccia. Anzitutto questa ricostruzione non è questa ricostruzione dei beni ecclesiastici disponibili è il frutto di una lunghissima aggregazione. Loro sanno che per quanto riguarda i beni ecclesiastici nel napoletano noi abbiamo semplicemente una tradizione illuministica riformatrice che ci informa che i beni ecclesiastici occupavano i 9 decimi del territorio e così via. Del resto fino al periodo napoleonico, il re era convinto che più o meno l'entità fosse quella. Io ho dovuto invece procedere con metodo inverso, cioè accumulare volta per volta, scheda per scheda, in definitiva ho dovuto fare 27.530 schede, fondo per fondo, sommandolo poi, perché nonostante vi sia questa convinzione, vi fosse già allora questa convinzione sull'entità dei beni ecclesiastici, però non esisteva effettivamente un censimento dei beni ecclesiastici. E allora io ho utilizzato questo campione disponibile e sono arrivato alla conclusione che in definitiva i beni ecclesiastici non occupavano in estensione più di un decimo del territorio della provincia e non i 9 decimi. Cioè il 10%, il 15% al massimo, se noi vogliamo sommarvi, perché io ho voluto recuperare da altre fonti i beni delle parrocchie, da altre fonti ancora i beni di altre mense vescovili che mi erano sfuggito, che non rientravano nei censimenti generali ordinati dalla Cassa Sacra, ma non si può andare assolutamente oltre il 10-15% calcolato sulla superficie agraria e forestale e oggi accatastata. Cioè se noi facciamo il computo dei territori non comunali ma della superficie agraria e forestale quale noi oggi abbiamo e la raffrontiamo ai beni ecclesiastici di quel tempo, non si dovrebbe andare al di là del 10-15% al massimo, non si dovrebbe andare al di là. E questo è un primo discorso. Come poi fossero gestiti questi beni ecclesiastici, questo è tutto un discorso diverso che non rientra nell'ambito. Questi beni ecclesiastici furono posti a disposizione dei compratori nel 1784. Bisogna dire che i primi 2-3 anni delle vendite, la politica delle vendite fu alquanto limitata. È da tenersi presente che le mire del legislatore, le mire del governo napoletano furono essenzialmente due e furono entrambe molto avanzate, bisogna dire. Entrambe molto avanzate. La prima mira era non tanto, ecco, questo è ci offre l'indizio di una visione più moderna dello Stato. Cioè non si voleva immediatamente con i denari, con i capitali ottenuti dalla vendita, non si voleva intervenire a favore della provincia. si voleva intervenire indirettamente. Lo Stato si riprometteva, attraverso i capitali recuperati dalla vendita dei beni ecclesiastici, io qui ho saltato tutti gli accordi con il Pontefice, eccetera, la cosa ci porterebbe molto in là. Ecco, si voleva attraverso, quindi primo scopo, con questi capitali ricomprare le partite fiscali arrendate, cioè ricomprare quei cespiti fiscali che lo Stato napoletano, per una vecchia tradizione, aveva affittato a dei privati, togliendosi la possibilità di prelevare, di effettuare direttamente il prelievo fiscale. E quindi prima mira ricomprare attraverso questi capitali le partite fiscali vendute ai privati. In secondo luogo, la seconda mira era pervenire a una redistribuzione della proprietà in modo da favorire in modo particolare i contadini poveri. È molto chiaramente detto nella legge istitutiva della Cassa Sacra che la legge si proponeva proprio questo, di ottenere un potenziamento della piccola proprietà nella Calabria interiore. Sul primo oggetto è inutile spendere molte parole, loro mi scuseranno, io non ho fatto una scaletta, non ho fatto niente, quindi forse posso essere un po' disordinato. Sul primo obiettivo non sono molte parole da spendere, esso rientra normalmente in una finalità, nelle finalità tipiche di uno Stato moderno che voglia gestire in proprio il gettito fiscale. Il secondo è di notevole interesse. Non era una mira puramente populistica o genericamente filocontadina. Era una mira meglio innestata nella tendenza fisiocratica del tempo, sulla base di alcune convinzioni molto precise. No? Io ho fatto uno studio sulla demografia calabrese del 6-700. La Calabria presenta uno dei tassi più bassi di incremento demografico. Già il regno aveva gravi difficoltà demografiche e a queste difficoltà demografiche, anche se essi non escorgevano il circolo vizioso, i riformatori attribuivano i ritardi notevoli dell'economia agraria del Mezzogiorno. Poche braccia, poche coltivazioni, quelle poche braccia appartenenti a persone ignoranti, quindi scarsissima coltivazione. La crisi del 1764, una delle più paurose crisi granarie del regno, pose al centro dell'attenzione del legislatore la scarsezza della popolazione di alcune province, la Calabria era il punto più basso, e quindi la necessità di pervenire a un incremento della demografia. Io ho dimostrato in un libro mio collaterale come la scarsità demografica fosse da scriversi non a incremento notevole delle morti né a decremento delle nascite, ma soprattutto a un sistematico abbassarsi dei tassi di matrimonio. I matrimoni lungo tutto il Settecento, per esempio nella mia città a Catanzaro, subiscono una drastica riduzione lungo tutto un secolo, segno evidente proprio del basso tenore di vita e quindi della impossibilità della disaffezione al matrimonio da parte dei giovani. Ora quindi una delle mire essenziali del legislatore nel momento in cui viene istituita la Cassa Sacra è questa: incrementare la piccola proprietà, dare spazio ai contadini in un contesto sociale che era largamente disgregato e che era caratterizzato da fortissimi squilibri nelle fortune. Quindi i beni furono posti in vendita nell'84, ma bisogna pur dire che nell'84 e nell'85 le vendite furono scarsissime. Questo per un complesso di motivi che qui si possono soltanto accennare, ed è evidente che dovette giocare un ruolo, una certa polemica da parte delle autorità ecclesiastiche, le quali tendevano a far credere che la iniziativa fosse di lieve momento, che sarebbe stata quanto prima sospesa. Ma nell'85 noi assistiamo ormai alle prime vendite e tra l'85 e l'86 incominciano a inserirsi i primi compratori. Qui io non posso parlare che in termini molto generali perché le partite vendute furono 5.547 e anche in questo caso, siccome non esiste a livello di Cassa Sacra, non esisteva una, collettiva, come si diceva, cioè un piano generale delle vendite effettuate, anche perché, questo voglio dirlo per inciso, la Cassa Sacra ebbe anche un'altra maledizione addosso, di avere una organizzazione estremamente, estremamente complessa, senza riuscire dopo 12 anni di funzionamento a realizzare un proprio stato patrimoniale, senza a presentare al governo un inventario definitivo. Io ho dovuto ricostruirla anche stavolta dal basso, con un mosaico di informazioni recuperate attraverso fonti archivistiche e calabrese e napoletane, volta per volta. Le partite vendute furono 5.547. Nell'85-86 è significativo che i primi compratori appartennero tutta una zona geografica, una zona territoriale molto ben delimitata e una fascia sociale molto ben caratterizzata. Io qui devo parlare un po' di zone che loro naturalmente non possono conoscere molto bene. E i primi a intervenire sono i baroni del Crotonese, della zona di Crotone, cioè del Medio Ionio, e che comprano estensioni molto, molto ampie di fondi, cioè comprano fondi molto estesi per dei prezzi molto, molto bassi, molto bassi. Sono in genere baroni di feudi, non baroni di terre, non erano feudatari, erano detentori di piccoli uffici, erano detentori di piccoli feudi rustici, ma non erano veri e propri feudatari, perché i feudatari erano esclusi dalla possibilità di comprare, venivano esclusi dagli acquisti. Però ecco, i baroni veri e propri, quindi non i conti, non i marchesi e così via, ma i baroni in quanto titolari di piccoli feudi, potevano accedere agli acquisti. I primi acquirenti sono i baroni, sono i baroni del Crotonese, che è la zona classica della agricoltura estensiva. Il Crotonese è la zona più arida d'Italia, che ha un tasso di insolazione più arido di tutta Italia, ed è stato sempre uno dei più grossi mercati, insieme col Tavoliere delle Puglie, uno dei più grossi mercati di produzione granaria, sia per il resto del Mezzogiorno d'Italia, sia soprattutto per Napoli, che viveva per larga parte e con il Tavoliere, e con larga parte del Tavoliere, e soprattutto con le zone del Marchesato di Crotone. Quindi i primi compratori sono questi. E negli anni successivi le vendite incominciano ad articolarsi meglio. Qui faccio a volo d'uccello uno sguardo diacronico molto rapido. Quindi i primi interventi sono quelli nell'84 del Crotonese, e negli anni successivi invece le vendite si diffondono un po' dappertutto e si comincia a determinare una certa curva che non ho qui elaborato, non potrei nemmeno far esaminare attentamente, finché tra gli anni 89, 90, 91 si raggiunge il culmine delle vendite, e la Cassa Sacra funziona a pieno ritmo. Questo perché nell'88 era stata riordinata un poco la gestione della Cassa Sacra. Poi le vendite incominciano a decrescere, nel 95 ormai si vende molto poco, nel 96 la Cassa Sacra viene abolita e viene sostituita dalla cosiddetta delegazione del Monte Frumentale. Quando ho scoccio, o vado per le lunghe, o tolgo spazio agli amici, me lo dovete dire. Qual è il problema? Veramente ne sorgerebbero mille, perché sono 12 anni di una vita intensissima. E lavorando all'archivio di Stato di Napoli, io ho trovato letteralmente migliaia di suppliche di povera gente che cercava qualche cosa a questa amministrazione straordinaria. Cioè un semplice studio, di carattere linguistico, semantico, condotto su queste suppliche di povera gente, consentirebbe già dei volumi. Cioè un'amministrazione straordinaria, questa Cassa Sacra, rappresentò per questa provincia tutto, anzitutto perché veniva costituita come tribunale civile e penale, Quindi assommava in sé le caratteristiche di una pretura, di una corte d'appello, di una corte d'assise, di un tribunale, ed era contemporaneamente prefettura, questura, ed era contemporaneamente cassa del Mezzogiorno, era tutto. Quindi in questo enorme archivio della Cassa Sacra, la stessa vendita dei beni ecclesiastici, che fu la spina dorsale e la struttura portante della Cassa Sacra, la stessa vendita dei beni ecclesiastici è uno dei momenti dell'attività della Cassa. Ci sarebbero da fare, io penso, 30, 40 tesi di laurea su argomenti diversi, per dare vita a tanti volumi sugli aspetti più strani, e tutti di estremo interesse, perché i numeri sono sempre grandi. Cioè, è tutta una provincia che in questo momento viene messa a nudo, e io ritengo che quasi ogni famiglia, per esempio, abbia un rapporto di quel tipo, cioè a livello di supplica, a livello di richiesta di intervento e così via, con l'autorità centrale. Si potrebbe veramente fare uno spaccato della società meridionale attraverso queste fonti. Io ripeto, mi sono potuto interessare semplicemente, ci ho impiegato anche troppi anni, semplicemente della vendita dei beni ecclesiastici. Quali sono le prime difficoltà nelle vendite, nelle compravendite, in queste transazioni incoraggiate dalla Cassa Sacra? Il fatto è che molto presto, la Cassa Sacra si trova di fronte a un impasse. Da una parte ormai si è inserita e si è sostituita agli enti ecclesiastici già proprietari, se non che non ha nei confronti del contesto sociale gli stessi rapporti di continuità e di conoscenza che avevano i precedenti enti ecclesiastici. Quindi la stessa interruzione nell'amministrazione, la sostituzione di quasi tutti gli amministratori precedenti degli enti ecclesiastici, che vengono sostituiti da nuovi amministratori laici, rimanendo alcuni procuratori al più basso livello, procuratori spesso ecclesiastici al più basso livello della scala dell'amministrazione, tutto questo pose dei problemi alla Cassa Sacra. E trattandosi di beni fondiari, il problema era di doverli amministrare seriamente, subito, non erano degli appartamenti che si potessero lasciare sfitti per un anno, erano dei beni fondiari i quali richiedevano una coltivazione immediata. La Cassa Sacra si trova allora di fronte a questa impasse. Da una parte deve amministrarli, ammesso pure che non li venda, deve continuare a farli coltivare, e deve farli coltivare adesso con un'amministrazione radicalmente cambiata. In questo momento si trova di fronte alla circostanza che tutti richiedono uno sgravio dei canoni di fitto. Gli affitti, i canoni di fitto, cadono in maniera inesorabile in questi anni, sia per condizioni molte volte oggettive, ma questo è valido solo per alcune zone della Calabria, che non venne colpita alla stessa maniera dappertutto e dal sisma, dal terremoto, e nello stesso tempo è nella necessità di dover mandare avanti l'amministrazione. Quindi i primi passi della Cassa Sacra sono già dei passi fallimentari. Essa è costretta ad amministrare quegli stessi beni ecclesiastici con dei proventi che immediatamente sono decurtati nei confronti di un tempo. Questo determina immediate lagnanze della Cassa Sacra, dei funzionari locali a Catanzaro, dove sedeva la giunta, dove sedeva l'ente amministratore. E poi da Catanzaro a Napoli, al governo, circa questo calo indiscriminato degli affitti. E in questo circolo vizioso si innesta poi la necessità allora di vendere questi beni della Chiesa. Inizialmente il governo è restio a vendere, sarebbe piuttosto propenso a affittare o a dare accenso perpetuo a questi stessi beni. Però si vede che è difficile dare l'infitto, perché si comprende che coloro che vogliono in fitto questi beni desiderano piuttosto prenderli in acquisto. Però il prezzo viene ulteriormente fatto calare. Perché viene ulteriormente fatto calare? Perché prima di vendere qualunque bene, qualunque fondo, la Cassa Sacra vuole appurare quale valore questo fondo abbia. E allora si fa la cosiddetta coacervazione decennale, bisogna prendere in considerazione i fitti degli ultimi 10 anni, abbiamo detto che le vendite vere e proprie non cominciano che nel 90, ebbene i 10 anni precedenti sono 80, 81, 82, 83 all'anno del terremoto, cioè niente, non produce niente, 84 canoni sviliti, 85, 86, cioè immediatamente la stessa coacervazione decennale dà un tasso di rendita medio enormemente più basso rispetto a quanto non avessero realizzato quegli stessi beni in mano all'amministrazione ecclesiastica. Se non che la Cassa Sacra non può rinunciare a vendere, perché allora dovrebbe amministrare in proprio. Amministrare in proprio significa esporsi a spese e in genere quasi ogni volta la spesa di manutenzione e coltivazione di un fondo equipara quasi la rendita del fondo stesso. La Cassa Sacra allora non vede l'ora di spogliarsi di questi fondi. Se ne spoglia, siamo d'accordo, ma se ne spoglia in che modo? Cioè svendendo. Perché a poco a questo effetto nefasto dell'ultimo decennio di affitti bassi si unisce il fatto che i compratori incominciano a nicchiare, capiscono, io sintetizzo qui in poche parole per non togliere spazio ai colleghi, e la Cassa Sacra è costretta allora a offrire in vendita a condizioni sempre più vantaggiose. I compratori, che ormai è molto chiaro, non appartengono che a una fascia sociale, che è quella di coloro che possono permettersi l'acquisto. I contadini, per il fatto stesso che le vendite sono fatte all'asta, non possono competere sotto l'asta fiscale con i grossi proprietari che sono gli unici a detenere dei cespiti ragguardevoli. E allora questi proprietari, desiderosi di comprare, si fermano, aspettano che le condizioni si aggravino, comprano solo nell'89, 90, 91, non solo, ma quasi sempre, chiedono a loro il riapprezzo o un terzo apprezzo dei fondi. E in genere gli apprezzi, i riapprezzi, i terzi apprezzi portano ad una visione ancora più riduttiva, ad una valutazione ancora più ridotta di questi stessi fondi. Quando questi fondi hanno come valore un decollo verticale, esclusivamente in alcune zone, per esempio a Catanzaro, là dove esiste una borghesia fondiaria molto agguerrita, sicché allora si accende intorno ad alcuni fondi una contesa per l'acquisto di alcuni beni immobiliari. Allora basta prendere come spia, come campione, alcuni di questi fondi, o tutti i fondi, per grandi numeri, per vedere come lì dove si verificasse una contesa, ma sempre a livello delle fasce medio-alte, si intende, della struttura sociale calabrese del tempo, ecco che lì i fondi riescono a triplicare o a quadruplicare o alcune volte a decuplicare il loro valore nei confronti di quanto non fosse stato considerato inizialmente. Naturalmente, quali sono le fasce sociali che rientrano nell'ambito degli acquirenti? Le fasce sociali che rientrano nell'ambito degli acquirenti sono indubbiamente quelle della, esclusivamente quella della borghesia agraria, quella dei baroni, i quali dimostrano una forza notevolissima. E io attraverso alcuni parametri ho fatto un censimento generale dei 2876 compratori e distinguendoli molto meccanicamente sulla base del titolo che viene loro riconosciuto negli atti di compravendita. Sono baroni, o alcuni io li qualifico come don, non posso sapere che cosa fossero esattamente, erano degli altoborghesi, venivano qualificati come don Giuseppe Placane, così via. Poi alcuni che venivano qualificati magnifici, notari, dottori fisici, preti, massari, mastri, vedove e un certo numero di non qualificati. Bene, la caratteristica essenziale è questa: ciascuna di queste fasce sociali dà vita a un proprio tipo di acquisto. Per esempio, è evidente che i baroni acquistano fondi caratterizzati dalla grossa cerealicoltura a carattere estensivo. E i don sono inseriti anch'essi in questa tendenza generale all'acquisto di fondi caratterizzati da cerealicolture estensive. Ma per esempio un'altra caratteristica, qui non posso che sintetizzare per grosse linee, viene data dal fatto che una forza notevolissima è costituita per esempio dai sacerdoti. E noi troviamo appena 27 medici e appena 34 notai, troviamo 93 sacerdoti. Questo sarebbe nulla, perché naturalmente il peso numerico dei sacerdoti in quel periodo è ragguardevole, ma quello che è importante, e io vi ho accennato in una relazione a un convegno organizzato da Rosa Potenza, è l'enorme peso economico che alcuni sacerdoti hanno nella Calabria del tempo, il che comprova come a 700 avanzato si fosse ormai realizzata in pieno l'assimilazione del sacerdote meridionale alla classe borghese. Non esiste più il vecchio sacerdote di estrazione popolare, ero caro a De Rosa, cioè un po' mitico, un po' magico, molto superstizioso, molto inserito nella religiosità popolare. Questo prete non c'è più a 700 avanzato per un complesso di motivi. C'è invece il prete che appartiene alla categoria, alla classe borghese, figlio di una famiglia borghese, riesce a comprare, a fare degli acquisti di tutto riguardo, compra in media per un esborso medio di 467 ducati a testa, e laddove i notai per esempio comprano per 488, laddove per esempio i massari, che sono i grossi fattori, comprano per 280. Quindi i preti si collocano a un livello abbastanza elevato come prestigio. E in questo complesso di attività della Casa Sacra e di argomenti miei, sul quale voglio subito finire, però, noi abbiamo una tendenza ad alcuni obiettivi molto precisi. In alcune zone, e in queste zone alcune fasce sociali in modo particolare, mirano all'acquisto del latifondo estensivo a cereali, oppure mirano all'acquisto dell'alternanza grano-pascolo, che è tipica del marchesato e dei contrafforti meridionali e della Sila. In altre zone, per esempio nel Regino, Reggio Calabria e dintorno, zona che loro conoscono bene come connotazione esterna almeno, ebbene lì c'è una tendenza invece alla piccola frammentazione, no? Le abbiamo le piccolissime particelle di altissimo valore unitario, però. Ma lì non è più la terra del grano, del pascolo, quella è la terra del cedro, quella è la terra del bergamotto, la terra degli agrumi e dei primi tentativi di inserimento di una industria estrattiva con notevoli riflessi commerciali a livello di produzione degli agrumi e in direzione dell'industria, appunto. Questi agrumi non vengono venduti quasi mai per essere mangiati, la frutta è cosa rarissima nella Calabria del tempo, e invece vengono indirizzati proprio per per l'industria delle essenze, soprattutto in farmacia. Però ecco, questo è il problema. Contemporaneamente questi, al polo opposto dei baroni, quindi, i baroni che comprano grano e pascolo nel crotonese, e i borghesi reggini che comprano agrumeti, bergamotteti e così via, io ho notato che anche qui ci sono delle discrepanze notevoli. Anzitutto questi borghesi reggini, tesi all'acquisto di fondi pregiati e moderni, via, per dire un termine banale, sono sconfitti dalla grande rendita, cioè per quanto essi vogliano comprare non riescono mai a gettare sulla bilancia il peso che vi gettano invece i baroni proprietari di latifondi estensivi. E questi proprietari regini che mirano a comprare fondi di pregio, agrumeti e così via, hanno a disposizione, possono comprare sì dei fondi molto preziosi, a produttività altissima, ma possono mettere sul piatto della bilancia poche migliaia di ducati. Anzi, questi stessi borghesi riescono a comprare terre di carattere estensivo quasi a compensare, con una rendita più sicura, quel tipo di rendita moderna, quel tipo di profitto moderno che essi tenderebbero a conquistare attraverso il possesso dei beni, dei beni ad alta produttività. Quindi è evidente che nella Calabria tardo settecentesca la rendita ha il suo valore, la rendita proprio tradizionale, dal possesso di terre da affittare e da sfruttare in modo assenteistico e parassitario. E vi è un'altra cosa, la tendenza indiscriminata in questo periodo, e del resto ce ne parlano altri studiosi del tempo, all'eliminazione del gelseto, grande attività tipica del Mezzogiorno per la produzione della sete, e all'impianto dell'olivo in sostituzione della sete. Quasi tutti i grandi, piccoli e medi proprietari tendono ad acquistare fondi per immettervi dell'oliveto, oppure comprano ad alto prezzo l'oliveto. È in questo periodo che noi abbiamo quella grande trasformazione della piana di Gioia Tauro e di Rosarno in quell'immenso oliveto che noi conosciamo. In questo periodo noi abbiamo l'inizio di questa fortuna dell'olivicoltura regina. E qui sarebbero da dire mille altre cose, tante altre cose. Quali sono le fasce sistematicamente sacrificate? Ebbene, il gioco dell'asta, il gioco dell'asta era tale che non poteva non scoraggiare i contadini, perché per bene che andasse la rateazione non poteva che essere decennale, e nel frattempo bisognava pagare l'interesse scalare al 4%, tutto il più entro 10 anni doveva essere pagato il fondo. I contadini, che erano sempre al limite della sussistenza, anche nelle fasce non più basse, non potevano gareggiare sotto l'asta per conquistarsi i beni. Da che cosa è dimostrato questo? Che una gran parte delle licitazioni avviene nel modo più tranquillo di questo mondo. Cioè non c'è una gara d'asta, c'è il tizio, il caio, il sempronio, il mevio, che si presenta, chiede l'affitto e chiede la vendita sulla base della coacervazione decennale o sul prezzo di stima, che è molto conveniente, li compra e tanti saluti. In genere questi tali fanno grossa accumulazione di fondi, o comprano fondi molto grandi, o comprano più unità fondiarie negli anni, e si determinano grosse forme di accumulazione. Alcune volte i piccoli contadini, i piccoli coltivatori, i piccoli massari riescono a inserirsi nel mercato, e essi vengono quasi sempre fatti fuori, vengono eliminati dalla scena dell'asta fiscale, o perché immediatamente il proprietario tradizionale riesce immediatamente a fare un'offerta enormemente superiore, o perché il grosso proprietario riesce a pagare in contanti, e questa è la forma di precedenza nei confronti degli altri compratori, che comprasse in contanti. Oppure, ove tutto manchi, esiste una forma di dissuasione occulta o meno occulta, che era il cosiddetto prepotente, con la P maiuscola, come veniva definito, quasi fosse una istituzione del luogo, non so se camorrista o mafioso, il quale si preoccupava di portare avanti una dissuasione nei confronti degli altri oblatori, soprattutto dei piccoli oblatori. A livello dei medio-alti oblatori, a livello dei medio-alti offerenti, l'organizzazione era perfetta. In genere tranne il caso di Catanzaro e un po' di Vibo, allora Monteleone, dove la borghesia cittadino-agraria era molto attiva e quindi molto combattiva, anche con lotta senza quartiere al suo interno, in genere in questa fascia medio-alta le aste erano sempre molto tranquille, offrivano soltanto due, il secondo offriva per un millesimo in più, per un centesimo in più, dopodiché mollava subito la preda all'altro, e l'altro si regolava reciprocamente nel caso di un fondo venduto il giorno dopo. Quindi l'accordo, in sostanza a danno del sacro patrimonio, era perfetto, e tutto congiurò in modo tale che i beni della Chiesa, 5.547 fondi, cioè in definitiva un quinto del totale, venisse venduto nelle condizioni più favorevoli ai compratori. Un quarto di questi, e così andiamo avanti ora negli anni, un quarto di questi fondi risultava, o circa un quarto, perché non esistono delle statistiche complessive, risultò poi un quarto o un quinto nel 1806 restava ancora da pagare. Sì che però erano passati parecchi anni ormai. Nel 1806 ancora un quarto restava da pagare. E nel 1806 si insedia nel frattempo una nuova dinastia e subentra un nuovo governo che ancora una volta mette in vendita o riscatta dei censi precedenti. È da dirsi che negli anni precedenti, cioè dal 96 al 6, molte delle vendite fatte col contratto di censuazione, censo perpetuo, che è una cosa molto interessante, una notevole parte di questi censi vengono riscattati, cioè i debitori diventano ancora una volta sempre meglio proprietari del bene immobile comprato, riscattando il censo perpetuo che avevano acceso. Questo determina un forte drenaggio di capitale dalla Calabria alla capitale, naturalmente, no? E questo è all'origine del fatto che nel decennio napoleonico, poi, le vendite di beni ecclesiastici non abbiano in Calabria, nella Calabria ulteriore, quelle fortune che hanno invece che queste stesse vendite hanno nelle altre province. Cioè, la fascia dei medio-alti proprietari calabresi, che era stata già abbastanza provata dagli acquisti, cioè contratto dei debiti in questo frattempo, e quindi non era in grado di accedere immediatamente a quelle altre vendite che tra il 6 e il 15 vengono generalizzate in tutto il Regno di Napoli. Ci sono alcuni fenomeni di grossissima accumulazione nella Calabria napoleonica, basterebbe l'unico nome che mi sogno di fare in questa stanza, quello di Emanuele De Nobili, catanzarese, e gran ciambellano di Gioacchino Murat, che compra per circa 500.000 di ducati, cioè una cifra enorme per quei tempi, cifra veramente eccezionale, e con un destino molto, molto triste, perché questo patrimonio sparirà presto, non solo per conseguenze fatte politiche, ma perché uno dei discendenti del De Nobile sarà coinvolto in una storia di amore e di politica, e con alcuni contatti, niente meno, con l'avventura dei fratelli Bandiera, e questo discendente dei De Nobile darà tali e tanti grattacapi in famiglia che tutto intero questo patrimonio andrà disperso. Ma per tornare non all'aneddoto, ma a cose un tantino più complessive, è da dirsi che la Calabria, ecco, nel periodo napoleonico non dà quello stesso contributo di capitali che possono dare le altre province, perché la Calabria ulteriore in questo periodo è provata. Essa dà il 6,96 come contratti, cioè circa il 7% del regno, guardate, nel regno grande egemone è Napoli con i suoi grandi signori, grandi compratori in cedole, in contanti, dei fondi posti a disposizione dal governo napoleonico. Il 6,96 in contratti, il 5,70 in acquirenti, ma appena il 2,66 in valore complessivo, che dimostra che anche i ricchi compratori della Calabria, tranne il caso di Emanuele De Nobili, anche i ricchi compratori della Calabria sono ormai stati abbastanza munti dall'amministrazione precedente, anche se da questo loro hanno tratto le fortune, l'origine del primo slancio in avanti della borghesia agraria calabrese. E come si conclude questa esperienza di un trentennio di vendite di beni della Chiesa in Calabria? E si conclude con un potenziamento delle strutture, così strutture economico-sociali così quali esse erano. La rendita fondiaria classica, cioè destinata all'affitto, comunque allo sfruttamento indiretto, ne risulta potenziata. Risultano completamente sacrificate le fasce medio-basse, ivi inclusi i massari che comprano i fondi più pregiati, indubbiamente, lo si vede dalle medie che io ho elaborato, però non possono comprare molto, invece i don, gli alti borghesi, i patrizi, i baroni, comprano in proporzioni cospicue, quindi si accentuano le caratteristiche tipiche della struttura economico-sociale e della stessa struttura agraria della Calabria del tempo. Non si può dire che non ne risulti niente. Io ho scritto un libro nel 70 sulla Cassa Sacra, mi interessavo solo del distretto di Catanzaro e adesso scrivo quello definitivo, mi interessa il distretto di Catanzaro più gli altri 39, ho a disposizione adesso dei numeri più alti, dei numeri più grandi, posso esprimere delle convinzioni meglio su re perpense. Posso pervenire alla conclusione che non è poi detto che non si sia cambiato nulla, indubbiamente qualcosa in 12 anni doveva pur cambiarsi. Cioè, c'è un'accentuazione della rendita fondiaria, c'è l'ingresso di alcune piccole famiglie, e qui il discorso si farebbe molto lungo. Quindi. Io ho studiato tutte le famiglie proprietarie avanti il 1784, quali risultavano da tanti certificati rilasciati dai comuni, e ho voluto vedere famiglia per famiglia quanto comprasse e quanto non comprasse. Bene, una metà delle famiglie che venivano date per benestanti nel 1779 non comprano nemmeno mezzo fondo. E questo è molto importante. Che significa il tracollo di alcune fortune borghesi. E invece contemporaneamente, indubbiamente, c'è l'ascesa di altre fortune borghesi che nel 1779 non erano minimamente menzionate. Che significa che si era attuato già una redistribuzione all'interno dei redditi agricoli nella Calabria del tardo Settecento. La Cassa Sacra si innesta in questo processo. Da una parte, direi per una larga parte, consolida gli elementi di staticità. Ebbene, anche la trasformazione verso l'uliveto è, per un complesso di motivi che qui non vi dico, un elemento di staticità, non è per niente un elemento di dinamismo nella Calabria del tempo. Contro quello che potrebbe pensarsi. C'è sì qualche altro elemento di novità, cioè l'ingresso di nuove famiglie, cioè non di nuove famiglie alla proprietà, assolutamente no, questi sarebbero i piccoli contadini e non proprietari, che nessuno di questi diventa proprietario. Io ho studiato anche i coloni per vedere se i coloni in giro diventassero proprietari, nessun colono diventa proprietario, a meno che non fosse un grosso colono, ma allora era proprietario di altre terre per fatti suoi. Ebbene, nessuno di questi vende. Nel livello medio della società, della borghesia rurale, ci sono alcuni sviluppi verso l'alto, acquisto di nuovi fondi, e ci sono invece molte famiglie che non comprano nulla. E questo è quindi l'indizio che la Cassa Sacra introduce alcuni elementi di novità e altri elementi invece di staticità accentua nei limiti del possibile. Vi chiedo scusa per avermi scusato.